GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Domenica di acquisti per Natale a Udine, commercianti soddisfatti ma non per i parcheggi e si compra a rate. Controlli rafforzati dei carabinieri nel capoluogo friulano, negozi sospesi per violazione delle norme sulla sicurezza. Udinese a caccia di continuità, bianconeri a Firenze nel turno prenatalizio del campionato di Serie A. Basket in A Pallacanestro Trieste a Varese e A Udine in casa con Treviso, in A2 rallenta la corsa di Cividale. 12, 15 minuti, 45 secondi, di nuovo buona domenica da Rita Micoli, una domenica questa dedicata agli acquisti natalizi. Siamo andati a sentire come procede lo shopping delle feste a Udine. Natale sta arrivando, non è uno slogan, anche se in molti devono ancora comprare i regali, si spende soprattutto per far felice i bambini. Udine, in una domenica soleggiata, ne approfitta per realizzare gli acquisti, una spesa che rimane pressoché invariata rispetto allo scorso anno, ma aumenta il numero di famiglie che comprano a rate. Il movimento a difesa del cittadino Friuli Venezia Giulia rileva da un'indagine che l'incremento del 9% dei prezzi alimentari ha ridotto del 13% la capacità di risparmio delle famiglie e spinto oltre il 16% dei cittadini a ricorrere al credito anche per spese correnti. La spesa natalizia si attesta a 250 euro per famiglia e il 36% ricorrerà a forme di credito per sostenere questi costi. Bene la tecnologia, ma anche gli articoli di un certo valore. Tra i commercianti c'è ottimismo, la critica riguarda i parcheggi. Una città, Udine, per pochi, dice qualcuno, vista la difficoltà ad arrivare in centro. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Servizio di controllo del territorio straordinario l'altra sera per i carabinieri del comando compagnia di Udine insieme al personale del nucleo ispettorato del lavoro e dell'azienda sanitaria. Identificate oltre 30 persone, controllati una quindicina di veicoli nel centro storico della città. È stato rintracciato ed arrestato un uomo che doveva essere ai domiciliari e che sarà ora processato per direttissima. È stata anche trovata e restituita al proprietario una vettura rubata solo il giorno prima a Codroipo. Due denunciati, uno di 29 anni, residente in provincia, trovato in possesso di un coltello a serramanico, il secondo, un 21enne, in possesso di 170 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata. Quattro titolari di altrettanti negozi della città sono stati denunciati per violazione alle normative di sicurezza sul lavoro. Le attività commerciali sono state sospese, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre 50.000 euro. E ora a Trieste prosegue il ciclo Lezioni di Storia, le radici del presente, ideato e progettato da editori La Terza e promosso dal Comune di Trieste con CR Trieste. Questa mattina al Teatro Verdi con Mario Del Pero, docente di Storia Internazionale a Parigi, un appuntamento dedicato a Yalta e il nuovo ordine mondiale. Sentiamolo. Lei parla del mito di Yalta, perché? Perché negli anni quella conferenza è diventata una sorta di passaggio spartiacque, è un passaggio che in questa mitologia avrebbe diviso l'Europa in due blocchi contrapposti, avrebbe permesso all'Unione Sovietica questo controllo molto autoritario sull'Europa centro-orientale. In realtà Yalta è solo un passaggio, un tassello tra i tanti, sia della diplomazia della guerra, sia del corso dell'andamento della guerra. E la divisione dell'Europa, per come poi si strutturò, fu una conseguenza del fallimento di Yalta, non l'esito degli accordi che a Yalta vennero trovati. In che modo questo approfondimento su Yalta può aiutarci a capire gli equilibri attuali? In una certa misura a questo mito di Yalta si affidano un po' tutti ancora oggi. Chi ritiene che ci sia una volontà espansionistica della Russia verso Occidente, verso il suo Occidente, chi presenta Yalta come un momento di cedimento dell'Occidente alle mire espansionistiche sovietico-russe, e quindi tutti invocano questo mito, fraintendendo poi il significato di quella conferenza, per giustificare le proprie posizioni oggi. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora il meteo, il cielo è sereno sulla regione, alle 11 c'erano 12 gradi a Trieste, Udine e Gorizia, 10 gradi a Pordenone, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 6 gradi come a Tolmezzo, a Tarvisio e a Sappada meno 2 gradi, sullo Zoncolan 6 gradi, sul Lussari 0, sulla costa a Grado 12 gradi, a Lignano 10. Le previsioni a cura del l'ARPA questo pomeriggio, cielo in genere poco nuvoloso con bora moderata sulla costa, possibile qualche maggiore annuvolamento locale. Domani cielo in genere variabile, bora moderata sulla costa, probabilmente la nuvolosità sarà più consistente verso il Veneto, meno sulle Alpi. E ancora alcuni appuntamenti di Natale, in attesa di Natale a Udine la ludoteca aperta, la slitta itinerante nel centro storico, i laboratori artistici in piazza Matteotti e alle 17 il Duomo ospiterà il concerto In Dulci Jubilo, ultimo della serie di concerti giubilari che la Cappella Musicale della Cattedrale ha proposto durante l'anno santo. Alle note si alternerà una catechesi dell'arcivescovo Lamba. A Trieste tanti appuntamenti, mercatino di Natale a Roiano dalle 16 alle 16.30, sospensione temporanea della circolazione per il tempo necessario al transito della banda, limitazioni al traffico anche per Natale sotto le stelle a Servola, a Opicina alle 15.30 in piazzale Montere, Babbo Natale in carrozza con i dolci per i bambini, a Stolvizza di Resia gli appuntamenti di Illuminiamo il Natale, l'arte presepiale a San Vito al Torre, promossa dal gruppo sportivo Donatori Sangue di Campolongo Tappogliano nell'antica scuderia di Villa Gorgo. Ora alcuni spettacoli, Chuck di Natale, Note di Pace, concerto al Culturni Dom di Gorizia alle 18, poi Nativitas, canti e tradizioni natalizie in Friuli Venezia Giulia nella chiesa parrocchiale di Villalta di Fagagna alle 18. E un appuntamento organizzato dalla Proloco di Turiaco anche quest'anno, un pomeriggio di festeggiamenti dedicato agli assistenti familiari, soprattutto donne straniere che si occupano delle persone più fragili nelle famiglie, in collaborazione con Comune, Fidas Isontina, Asi Hauser e Regione. Io sono Friuli Venezia Giulia. L'oratorio parrocchiale di via Garibaldi a Turiaco si trasformerà in uno spazio di festa e riconoscenza dalle 14 alle 17.30. Adesso lo sport e cominciamo dal calcio. In Serie A l'Udinese gioca in trasferta in casa della Fiorentina alle 18. È un Udinese a caccia di continuità quella impegnata a Firenze nel turno prenatalizio del campionato di Serie A. 6 vittorie e 3 pareggi hanno portato i bianconeri nel gruppone di centroclassifica. Il convincente successo con il Napoli campione d'Italia non può che dare fiducia, specie alla vigilia della sfida contro i Viola, ultimi in classifica e in piena crisi. Rugnaic però ha chiarito in conferenza stampa che non è una partita da prendere sotto gamba. La Fiorentina è come un pugile messo all'angolo, ha spiegato il tecnico bianconero. E questo tipo di avversari è il peggiore. Sappiamo che sarà una partita difficile, fondamentale per loro, ma anche per noi. L'unico dubbio della vigilia in casa Udinese riguarda la fascia sinistra della metà campo, con Camara di nuovo a disposizione. Mister Rugnaic però sembra intenzionato a confermare sul lato mancino del centrocampo Umbertola in forma strepitosa contro il Napoli. Conferme anche in difesa, con Christensen di nuovo a destra dopo un inizio di stagione da centrale, ruolo ora preso da Cabasele, e Solé sulla sinistra. A completare la mediana, di nuovo Piotrowski, Karlström e De Kelenkamp, con Zanoli a tutta fascia sulla destra. Davanti la qualità di Zaniolo e la forza di Davis, arbitra il signor Mariani di Aprilia, fischio d'inizio alle 18. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. In Serie C la Triestina sarà impegnata oggi alle 14.30 in casa della capolista Vicenza per il basket dopo lo stop alla corsa di Cividale in A2 con i Ducali battuti in casa dall'Avellino per 82 a 75. Oggi giocano le due regionali di A pallacanestro. Trieste è impegnata a Varese alle 20, a Udine ospita Treviso Basket alle 17. E adesso a Trieste, sport, comunità, solidarietà per la Bavisa. Gisela di Natale. Sentiamo. Una marea allegra e vestita di rosso, il colore delle feste natalizie, ha riempito a Trieste, Piazza Unità d'Italia, le vie di Cavana e le rive per la Bavisela di Natale, la manifestazione non competitiva organizzata dalla polisportiva Miramar e da Trieste Atletica. Chi correndo a ritmi da podista, chi con un'andatura più lenta e godendosi la giornata di sole, molti in compagnia del proprio cane o con i figli piccoli e quasi tutti con un tocco natalizio, dai cappellini da Babbo Natale a veri e propri costumi più elaborati con sonagli e palline colorate. Sono stati ben più di 1000 i partecipanti a un evento il cui valore è anche sociale. I 5 euro della quota di partecipazione, infatti, sono stati interamente devoluti alla Fondazione Burlo Garofalo, impegnata nel sostenere le attività dell'ospedale infantile triestino. Ma sentiamo Gabriele Cont, il presidente della Fondazione Burlo Garofalo. Una meraviglia, è proprio una questione di bellezza. Il nostro sogno era essere 1000, anzi 1001, e qua la partecipazione è stata enorme, siamo quasi 1300. Persone speciali, per persone speciali che lavorano all'interno dell'IRCCS, Burlo Garofalo, per i nostri bambini e le nostre bambine, il nostro futuro. Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una notizia che riguarda il biathlon, la sappadina Lisa Vitozzi oggi salta la mass start di Coppa del Mondo alle Grand Bornanda a causa di un raffreddore. Ieri era arrivata sesta nella 10 km a inseguimento, dove si era piazzata terza l'altra italiana Dorothea Wierer. È tutto per questa edizione domenicale del GR regionale, in regia Federico Comare e Riccardo Ostoici, in redazione ha collaborato Samantha Gon, da Rita Mi. Grazie per l'ascolto e ancora una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.